يا دائما بلا فناء o titolare di eternità senza cessazione. Waya qa'iman bila zawal, o titolare dell'entità divina che non viene mai meno. Ya mudabbiran bila wazir, o regolatore senza bisogno di ministro. Sahhil alaina wa ala walidaina kull asir, facilita a noi e ai nostri due genitori ogni difficoltà.